Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Sono qui alla Juve per portare entusiasmo e cercare di vincere tutto, però finché metto Bernardeschi in campo penso sia molto difficile, ecco. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Young Boys non è una squadra facile a giocare in questo campo. Hanno vinto tutte le ultime 15 partite. È importante sentire che questi giocatori, che normalmente non hanno giocato tanto questa stagione, hanno avuto una risposta come questa. Jesus non gioca molto tempo, Fazio anche, Paolo anche, e mi piace che arrivano qui e hanno fatto una buona partita. Secondo me potevamo starci una giornata oggi e non facevamo gol. La sensazione era questa. Il problema è che non si possono perdere questi tipi di partita. Abbiamo preso mezzo tiro in porta, l'abbiamo persa, ma secondo me abbiamo palleggiato in modo sterile e abbiamo fatto il solletico agli avversari. In questo momento abbiamo complicato il cammino, sicuramente abbiamo altre 5 partite. Non possiamo sbagliare più, il rammarico è quello. In questo momento abbiamo preso forse troppi complimenti, non lo so, ma non posso dire niente alla squadra. Molto importante dimostrare di non essere una squadra normale, nel senso che le squadre normali dopo una vittoria così, insomma, prestigiosa, così voluta, così sofferta come il derby, magari la partita successiva poi dimostrano meno motivazioni, meno stimolo e meno determinazione. Se recuperi qualcuno per domani? Io non sono preoccupato assolutamente. La strada che abbiamo intrapresa è la strada giusta, è la strada che ci rende felici, rende felice me, rende felice i calciatori, rende felice il club, il tipo di calcio che facciamo. Meraviglioso sentir suonare. Fai sentire. Proviamo. Suona ancora? Allora, cosa sta succedendo? Succede che Antonio Conte, quindi il Conte dell'Inter, non l'altro Conte, sta facendo conferenza stampa che è ovviamente tutto da remoto, cioè i giornalisti si accreditano e poi intervengono attraverso la piattaforma. Si vede che qualcuno ha lasciato acceso un altro video. Ed è partita una musica. È un siparietto simpatico, però. Sì, molto simpatico. Mentre Antonio Conte stava parlando, però poi ne parliamo, del concetto di felicità che l'Inter sta ricercando con il suo gioco, che fa felici tutti, il club, fa felici anche gli avversari in alcuni momenti della partita. Cioè, Giovanni Capuano, se l'avessimo preparata, avessimo fatto un montaggio del maestro Ferronato, non sarebbe venuta così bene. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, basta che non faccia come nessuno, come quel giornalista americano che No. Dice Woody Allen, è fare sesso con qualcuno che stimi veramente. Uno dei più grandi euforismi di Woody Allen. Volete il radio tweet? Allora, il radio tweet è un invito a Claudia a andare subito a cercare, l'ho appena ritweetato su Twitter. Pare che oltre agli 80 anni di Pelé che abbiamo celebrato ieri, oggi siano 25 anni da quella meravigliosa sigla di Mai Dire Gol, con tutti gli allenatori, la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie Subbuteo, con tutti gli allenatori schierati, che è un manifesto proprio all'ironia del gioco, al divertimento, anche alla capacità dei protagonisti quando vogliono di non prendersi troppo sul serio. Ed è esattamente quella, forse non ci si può tornare più indietro perché il calcio è diventato una cosa sicuramente molto più piena di pressioni, però fatto, è veramente un capolavoro, così come era un capolavoro quel Madrid Gold, sì. E per me rimane la strada a cui guardare, perché abbiamo adesso ancora 54 minuti, anzi no, un po' meno, 47, Claudia, troviamo quella sigla, se c'era. Vuoi da lì. Passami qua, passami qua, tiralo lì, tiralo lì, poi torna qui, poi torna qui, mettiti lì, dai, mettiti lì. La Serie A si basa sul concetto di campione che gioca in Serie A. La Serie B si basa sul concetto di banana che piede, la squadra retrocede e il mister silurato si ritira e fa una fine tipo a troppi. Perché il mondo del calcio non perdona chi si lecca. Voglio andare a vivere in campagna. Zappa, zappa, zappa, zappa, zappa, zappa. Io mi immagino soltanto la faccia della mia amico Leo Di Bello, che è il nuovo conduttore di studi di Europa League di Sky, che è precipitato in questa gabbia di matti. Ciao Leo. Ciao Leo. Vabbè, ma insomma, è dei nostri, è del partito dell'ironia, anche se poi grande grande l'abbraccio grande. Senti, ciao Leo. Adesso faccio fare anche a te un radio tweet, ma prima lo faccio fare a Capuano. Ma no, guarda, il mio radio tweet è, insomma, è abbastanza semplice ed è quella faccia lì di Antonio Conte, che prima ha fatto tutto questo discorso sulla felicità che insegue attraverso questa nuova filosofia di gioco, di cui possiamo discutere ampiamente, e però ha la faccia serena, ha detto, l'abbiamo sentito, ma io non sono preoccupato, gestiamo, giochiamo ogni tre giorni. Cioè sembra che, a parte che non sembra Antonio Conte, ma sembra il cugino, però... E questo è il mio radio tweet. Io continuo ad alzarmi in piedi, ad applaudire tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio che stanno convivendo con il Covid. Oggi l'Inter ha recuperato Young, la Roma ha perso Mancini, Young probabilmente potrà essere presente nella trasferta in Ucraina di Champions League nel corso della settimana. Conte avrebbe tante cose da raccontare, ad esempio, sugli ultimi 10 giorni, ma almeno per il momento sta passando sopra a tutto con una grandissima serenità e con l'atteggiamento vero di chi sta convivendo con questa cosa, che non è piacevole e ha risvolti che poi sono drammatici, noi parliamo di calcio, chiaramente. Questo però era il mio radio tweet di ieri, però lo fa, sì, ma guarda, io l'ho visto perché è lì che ride, sorride, l'abbiamo sentito, scherza, eppure è 2 giorni che è sotto processo anche sulle prime pagine dei giornali, sì. Come se non esistesse un contesto, e non si tratta di alibi, chiaro. Ma non esistesse un contesto che in qualche modo sta incidendo, abbiamo rimproverato, certo. Coinvolgo Leo, abbiamo riproverato a Conte, insomma, sempre questo suo essere un martello pneumatico, con l'adrenalina che delle volte scapocciata, come diciamo noi a Roma, anche dopo le vittorie. Adesso siamo veramente in una fase zen che se è vera, che se è autentica, magari è un nuovo inizio della sua carriera. Io penso lui sia bravissimo, ne parlavamo ieri, ma non è che lo devo dire io, insomma, i risultati parlano per lui. E probabilmente poi si arriva a un punto della carriera in cui forse quest'estate veramente si è fatto delle domande su se stesso, sulla comunicazione, sul cogliere il lato positivo, su avere un approccio magari più empatico con i mezzi di comunicazione, meno vivo, meno aggressivo, e magari questa roba poi funzionerà e sarà il suo segreto, cioè, Leo, che ne pensi? No, sono assolutamente d'accordo, Pier, con quello che dici. C'è un cambio di comunicazione da uomo non solo di calcio, ma di grande intelligenza e grande esperienza con Antonio Conte. Quindi, insomma, quando fa un cambio di questo tipo, anche dopo il confronto con la società, lo fa perché, come dire, è in testa con quello che conta, cioè il raggiungimento degli obiettivi, arrivare fino alla fine, far alzare un trofeo qualunque esso sia alla fine di questa stagione. Dico però, non so come dire, un riscontro nella squadra un pochino mi fa riflettere, nel senso che l'intensità di gioco, quella. Era veramente l'Inter di Conte, quella dell'anno scorso. L'Inter che vedo quest'anno lo è in tante cose, forse nella aggressività in campo, nell'intensità, nel 110%, qualcosina manca, non c'entra nulla ovviamente con il cambio di comunicazione di Conte, però tra l'allenatore e poi, come dire, la squadra, evidentemente qualcosina ancora non funziona, certo, la fase di difensiva, qualcosa di troppo, le assenze, come dicevate voi, ci sono state. Però non so, è come se qualcosa qualcosina fosse cambiato, cioè qualcosina da sistemare, insomma, sì, qualcosa non funziona, qualcosa non funziona, no, ancora. Ma io lo apprezzo così, ma non è una questione di comunicazione tout court. Io lo apprezzo in questa parte relativa soprattutto al condizionamento che abbiamo tutti noi e che quindi ha anche il calcio, che ha lo sport in generale in questa fase della nostra vita. Cioè quando tu stai sulle prime pagine dei giornali sportivi e si apre un processo sul tuo lavoro, e il tuo lavoro è fortemente condizionato, perché poi possono raccontare tutto quello che vogliono, ma in questo momento l'Inter è fortemente condizionata, certo, dall'impatto, certo, del Covid, e tu lo affronti con questa serenità, perdonatemi, ma io dico chapeau. Chapeau, perché poi lo sport e il calcio hanno una logica per cui conta il risultato e non conta null'altro, e invece dovremmo sottrarci anche noi un pochino in questa analisi, e cioè chiacchieriamo, discutiamo anche di alcuni errori che si sono visti, però il contesto c'è, il contesto esiste, non si può far finta. Per me ci sono due piani: c'è un piano complessivo, direi quasi filosofico, di rapporto con quello che sta succedendo, con i veri temi della vita, cioè voglio dire, sul non drammatizzare, torniamo alla sigla della Gianappa di 25 anni fa. Questo è un tema, se vuoi, un po' da ora di religione, di situazione civica, ma riguarda veramente il nostro approccio con tutto, cioè di non prenderci troppo sul serio, e questo vale anche per un allenatore strapagato che deve portare a casa i risultati. Poi c'è un aspetto invece legato alla comunicazione e a questo tipo di approccio all'interno del gruppo. Allora, se Conte sta cambiando dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della comunicazione interna e esterna, e questo è interessante, cominciano ad esserci degli indizi che vanno in questa direzione, perché comincia a essere una, due, tre, quattro, cinque volte, sei volte, sette volte, conferenza stampa, la sconfitta accettata con un atteggiamento diverso rispetto a prima. Vediamo quanto durerà, se durerà, e se questa cosa qui è un cambiamento definitivo estemporaneo dettato dal momento. Può essere anche un segnale di sicurezza, nel senso che può darsi pure che quest'anno Antonio Conte si senta molto tranquillo, più soddisfatto e molto più sicuro della rosa che ha a disposizione, per cui stia considerando questi passaggi a vuoto che ci sono e che non sono un dettaglio, e sul quale forse anche lui, insomma, si interrogherà sulle sue responsabilità, ammesso che ce ne siano, ma con la tranquillità di uno che sa che poi quest'anno la squadra, per arrivare fino in fondo, potrebbe avercela. Questo è un altro tema. Ragazzi, io vorrei tornare a ieri sera all'Europa League, allo studio di Leo Di Bello, che ho visto era particolarmente entusiasta per il Milan, soprattutto Matteo Marani. Mi sembra evidente, Leo, io sono più della posizione di Ambrosini, adelante con giudizio, come dicono in Spagna. È anche vero che il Milan vive un momento magico, ci sono segnali, ad esempio l'assenza più pesante, quella di Çalhanoğlu, entra Krunic, e chi fa il gol che sblocca la partita? Krunic. Sì, sì, è questo il punto, cioè l'avesse involto davvero tutta la cosa. Io credo che la più grande vittoria di Pioli, ieri abbiamo elencato i nomi, i risultati utili consecutivi, era il primo in tutte le classifiche, non solo in questo momento in Serie A, ma anche se paragonato a livello europeo. Credo la più grande vittoria di Stefano Pioli, di Ibrahimovic e del gruppo, sia quella di aver ridato la passione ai tifosi. Basta uscire per strada, incontrare i tifosi di Milan, ci crede subito contro i tifosi di Milan, sono tornati a seguire con grande passione e grande attenzione la propria squadra, cosa che invece non facevano negli ultimi tempi. Quindi quella è la più grande vittoria di Pioli, secondo me. L'abbiamo visto poi anche nei nostri ascolti, insomma, davvero il tifoso del Milan c'è, e c'è vicino al calcio come non c'era da tempo. Poi dal punto di vista tecnico basta guardare i numeri, lui ha coinvolto praticamente tutti i giocatori di movimento della rosa tranne tre, quindi vuol dire che li coinvolge tutti, ha una rotazione perfetta adesso anche con l'Europa League. Ieri Testi, uno di quelli che si è presentato nell'intervista post partita, ha detto: qui è una famiglia. È vero che sia la vittoria più grande di Pioli, no? Adesso è un gruppo compatto, dopo un mercato fatto. Ma poi siamo a 8, anche più grande dirigente. Sì. Siamo a 8. Sì. Cioè, voglio dire, qua continuo nella mia teoria, al di là del fatto che poi Inter e Celtic sicuramente sono state un upgrade in termini di difficoltà rispetto alle prime 6 partite. Però qua 8 partite su 8 non le vinci. Non le vinci se non sei squadra, se non hai un tuo kit di sicurezze, di certezze. E alcune l'ha vinta senza Ibrahimovic, quindi è ancora più da sottolineare questa cosa. No, io credo che veramente sia il Milan, per me è un grande punto interrogativo, nel senso che non so dove potrà arrivare, e comincio a pensare che cioè, non lo so dove potrà arrivare, se potrà arrivare per capirci, se può arrivare a vincere il campionato, tanto allora andiamo giù dritti su questo. Lo zio dice di sì. Io dico lo zio dice di sì, lo zio Bergby. Io dico di no. Tu sei più allineato con me, Giovanni. Insomma, io dico questo, è chiaro che in questo momento nel Milan funziona tutto ed è un momento prolungato, però se ci fermiamo diciamo all'inizio di questa stagione, sono alla fine tolti i preliminari, sono 5 partite, tra l'altro che vanno anche pesate, e però ci sono questi momenti, però la stagione del Milan presumibilmente sarà di 55 partite e Pioli l'ha detto anche ieri, è il primo che sa che arriverà il momento in cui non funzionerà tutto, che non basterà mettere dentro tre, diciamo, chiamiamole riserve, è arrivare tra le prime 4 e fare una buona Europa League. Io continuo a pensare ci siano 4 squadre più forti. Io continuo a pensare che ci siano 4 squadre più forti, che sono la Juventus, l'Inter, l'Atalanta e il Napoli. Io la penso alla stessa maniera, Leo. La tua posizione sul futuro del Milan, perché secondo me ha ragione Giovanni, ma è stato sottolineato anche da te ieri sera, cioè il vero test sarà quando fisiologicamente ci sarà qualche risultato meno brillante e lì si vedrà quanto vale il Milan, secondo me. Sì, è chiaro ed evidente, no? Che Pioli, quando è lì davanti in classifica, in campionato, cerca di spingere davvero il piede sull'acceleratore per provare a restare lì in alto, no? Poi arriverà un momento in cui dovrà gestire la rosa. Penso anche agli infatti di Ibrahimo, e non è che può giocare tutte le partite della stagione. Qui ci sarà un momento in cui evidentemente bisogna capire se la strada più facile, che poi l'obiettivo è quello per farlo in Champions, sia quella del campionato tra le prime 4 oppure addirittura provare a vincere l'Europa League. Questo lo dirà solo la stagione, qui dobbiamo soltanto aspettare. Pioli ha detto 2-3 squadre più forti di noi minimo ci sono in campionato, quindi è stato anche molto chiaro, lucido nell'analisi, quindi l'obiettivo resta arrivare tra le prime 4 per il Milan, e credo che abbia le potenzialità per farlo, che non può essere soltanto un momento. Il Milan secondo me è squadra. Quando sei in squadra, superare le difficoltà. Certo. Ma poi il Milan ha Ibra e ce l'ha. Ti posso dire, come dice mio amico Giovanni Benincasa, ti posso dire, autore televisivo, Ibra c'è pure quando non c'è. Ibra ha avuto un'importanza, secondo me, parlando con qualcuno dentro il Milan, me l'ha confermato anche nel momento in cui era positivo. Certo. La forza di questo giocatore è che riesce a ti posso dire io, Pier, sai cosa vi ha colpito? Ti posso dire si è inventato un nuovo ruolo, cioè quello non è più neanche l'allenatore giocatore, è l'allenatore giocatore papà, perché ieri sera a proposito di cambio di atteggiamento, prima parlavamo di Conte, ma lo declinerei anche per Ibrahimovic, che non fa più soltanto la superstar spaccona, ma va a saltare sui calci d'angolo difensivi, va a chiudere dietro, va a aiutare il compagno da 5 a tutti, cioè mi sembra veramente il papà giocatore allenatore. È nuovo a casa, Ibra al Milan è a casa, e ha abbracciato il progetto, si è fatto giustamente pagare a questo punto, credo che nessuno possa avere dei dubbi sul fatto che i soldi siano meritati per quello che si è visto fino a questo momento, perché rimane un grande, ma sta facendo il 110% di quello che deve fare. È veramente un leader assoluto. Quando parliamo di timidezze di qualche giocatore, oppure invece di questa capacità di calarsi all'interno del gruppo, della squadra, ma io me lo ricordo l'anno scorso nel post-lockdown, per esempio il Lazio-Milan o anche il Milan-Juve, anche quando usciva dal campo, anche quando stava in panchina, e lui era un leader, era un vice allenatore, un capo della comunicazione, un massaggiatore. Però perdonami Pier, questa è una grande forza per il Milan, ma rischia di essere anche il grande limite del Milan, proprio perché di quelle 55 partite inimmaginabile che spalmate su 10 mesi Ibrahimovic possa essere sempre quella cosa lì. Allora è vero, vediamo, che lui magari è anche importante da positivo esterno allo spogliatoio, però ti ricordo che senza Ibra in quel frangente il Milan ha rischiato di andare fuori con il Bodo Glimt e col Rio Ave, cioè ragioni di arrivare nelle prime 4, nelle prime 3, lasciamo stare la suggestione dello scudetto, significa avere una continuità, e io oggi temo, perché insomma a me piacerebbe tantissimo che il Milan rientrasse nel giro della Champions League per mille significati che ha questa cosa, e anche come acceleratore, perché torni ad essere il club che traina insieme a Juventus, Inter e le altre il calcio italiano, e però poi dopo ti rendi conto che alcune cose che oggi ti sembrano imperfezioni rischiano di diventare nel momento decisivo dei problemi. Ad esempio, non c'è un vice Ibra, non c'è un difensore centrale in più, e quando poi il momento picchia duro, ti insegna Antonio Conte, che pure adesso è zen, diventa difficile metterli insieme. Gio, io non penso che il Milan vincerà il campionato, perché se avesse pure l'altro difensore centrale, un vice Ibra e una cosa ancora più profonda, forse vincerebbe il campionato. Io non penso, per mortale che questo è un anno strano, e secondo me le variabili si moltiplicano e le distanze fra le grandi sono molto più piccole rispetto al passato, rispetto a alcuni dei campionati che abbiamo visto, alcuni dominati dalla Juve negli ultimi anni. Quindi secondo me c'è molto più margine, e quest'anno col Covid e con tutte le variabili ci sono ancora più, è ancora più liquido, dai, così gente è felice. Sì, sono molto felice, anche perché c'è chi chiede la mia testa, ad esempio, è un ascoltatore che mi ha mandato una mail, la sto leggendo, mi dà dell'antimilanista atavico, non saprei perché, e propongo se il Milan in campionato arriva prima delle sue quattro squadre, lui si dimette da conduttore della trasmissione, però a quel punto deve dimettersi anche Giovanni, perché anche lui l'ha preso. Sì, ci dimettiamo tutti. Ci dimettiamo tutti e facciamo un programma indie sulla musica, sulla scena romana. Viene qua Leo Di Bello che tanto che ci può sostituire, che ci può sostituire molto, molto degnamente. No, piuttosto, prima di salutarti volevo invece un pensiero su quella che forse è la vera notizia della giornata di ieri, cioè il flop napoletano contro la AZ Alkmaar, che già non è uno squadrone, era ridotta all'osso da problemi di Covid. Io credo, così a leggerla da lontano, che sia il peccato originale numero uno del Vangelo secondo Gattuso, cioè il peccato di presunzione. Ma io non sono così d'accordo, anzi, io quello che voglio dire è che si affronta un Marino Gattuso, ogni volta anche nelle interviste dimostra avere un'intelligenza, una capacità di leggere la partita, di essere uomo di calcio in tutte le dichiarazioni che fa. Ieri non si può dire niente, ha tirato praticamente la formazione titolare, il Napoli ha fatto 20 tiri verso la porta avversaria, ha dominato la partita, poi il calcio è bello e ci piace perché è così, perché l'altra squadra può fare una conclusione e poi alla fine, nonostante l'emergenza, la Z comunque con merito porta a casa la partita. Ma il Napoli ieri, secondo me, la gara l'ha dominata, non ha presunzione, secondo me non è la parola giusta, perché non ha fatto turnover, ha fatto giocare la squadra vincitore, il Napoli ci ha provato, poi il calcio è steso, è questa cosa qua. A me piace tanto Gattuso, perché ieri l'hanno messo, detto, se stavamo fino a domani, se l'avessero dopo a tirare in porta, la palla comunque non sarebbe entrata, c'era un rigore da dare sullo Zano, ci sono tante occasioni, non è andato Smer, cioè il calcio è bello perché poi regala queste sorprese, permette di raccontare storie dello Shakhtar che in emergenza coronavirus va contro il Madrid dal primo tempo, piuttosto che la Z, sempre i calciatori che deve lasciare a casa per il Covid, va al San Paolo e vince 1-0. È la bellezza del calcio, è il motivo per cui siamo appassionati tutti di questo sport che è imprevedibile e meraviglioso al tempo stesso. Però ieri, secondo me, il Napoli non ha peccato di presunzione, forse l'ha fatto un po' più Fonseca nel primo tempo, che poi quando ha messo il progetto in Mkhitaryan, ha messo i titolari nella ripresa, l'ha recuperata la partita della Roma con gli Young Boys. Ma io ho Gattuso e alla squadra, secondo me, non possiamo ricordare nulla ieri. Grazie Leo, ti abbraccio. Grazie a voi ragazzi, a presto. Ciao. Cosa ne pensate voi invece della sconfitta del Napoli? Ma io, cioè, troppa distanza tra la squadra che ha dato quattro fischi all'Atalanta, quella di ieri. Alle volte non è un problema di quante riserve metti dentro, e Gattuso oggettivamente ne ha messe poche a differenza di Fonseca. Il problema è proprio, credo, nell'approccio alla partita. E poi io storicamente ho l'impressione, ma spero di sbagliarmi, che a Napoli l'Europa League non la considerino poi un obiettivo centrale nel corso delle stagioni. Altre volte addirittura in altre fasi delle stagioni è stato detto anche apertamente da De Laurentiis, ho come l'impressione che si respiri quell'aria lì, perché se non basta nemmeno far giocare la squadra titolare, tranne credo due o tre cambi, tre col portiere, per avere una prestazione in linea con l'intensità, o almeno che si avvicinasse a quella fatta vedere tre giorni prima, è chiaramente un problema di approccio di testa. Non è chi gioca, ma come gioca molto. Ed è un peccato, è un peccato. Pier? È un peccato. Dipende molto da quello che dice giustamente Gio, nel senso che poi non è che sempre la quantità di titolari significhi focus e approccio giusto alla partita. Ad esempio, proprio ieri, cioè la Roma, che in realtà la partita l'ha cambiata con i cambi, quindi sicuramente l'ha cambiata mettendo in campo dei giocatori, però alla fine i conti sono tornati, il Napoli che ha cambiato poco, quindi teoricamente ha dato un segnale di focus, di dignità all'Europa League, in realtà poi invece non ha trovato il risultato. Sulla storia del Napoli con l'Europa League sono stati vari filoni, perché io ho commentato, mi ricordo tanti anni fa, Mazzarri faceva un turnover, soprattutto in trasferta, clamoroso, cambiava 9 titolari su 11 in Europa League. Poi ci sono stati anche momenti in cui invece l'Europa League è diventata qualcosa di molto importante, pensa a Benitez che, diciamocelo apertamente, venne scippato dalla finale di Europa League contro il Dnipro con insomma un paio di arbitraggi, uno soprattutto veramente clamoroso, poi manca la controprova, però insomma veramente nelle piccole partite i dettagli contro, ci fu un gol fuori gioco, ancora non c'era il VAR, insomma vabbè, è un'altra storia. Io penso che Napoli debba onorarla, che tutte e tre debbano onorare l'Europa League. Poi si faranno i conti a un certo punto della stagione. L'Europa League è una competizione dove gli italiani devono andare avanti e possono permettersi anche qualche passo falso e qualche gestione, secondo me, nella fase a gironi. Poi da febbraio in poi vedi dove sei messo in classifica e stabilisci le priorità. Non sono un integralista, capisco che a un certo punto uno possa fare dei ragionamenti, ma non li può fare certamente a settembre. Ed esempio arriva dall'Inter dell'anno scorso. Per quello che ti dico che ieri Napoli non ha snobbato la competizione, certamente, altrimenti Gattuso avrebbe fatto turno. In campo non ha avuto la ferocia, inconsciamente non ha avuto la ferocia agonistica che abbiamo visto contro la Atalanta. Torno a pensare, giochiamo contro la Z Alkmaar, che non è esattamente il Real Madrid, cui mancano N titolari per problemi legati al virus, arrivano qui con questa banda rabberciata, vabbè, andiamo in campo, si tratta solo di aspettare quando gli facciamo 1-2-3 gol, invece non è andata così, quindi credo che per questo ti dico, peccato di presunzione, non di Gattuso, ma dell'atteggiamento che il Napoli ha avuto in questa partita. La sensazione che ne ricavi è questa, perché 3 giorni fa ha dato 4 schiaffi all'Atalanta e ti ripeto, Gattuso disse: beh, bravi loro, perché un'altra squadra ne prendeva 7-8. Quindi tutti noi, a dire giustamente, il Napoli in questo momento è in forma. Ne vedremo sorprese quest'anno, secondo me. Ne vedremo. Se tu pensi al calcio post-lockdown, già da luglio, quante partite strane, quante partite assurde hai visto? Molte, ma anche dentro la stessa partita. Io penso a Milan-Juventus. Assolutamente. Ci sono vari esempi. Ciao Pier. Ciao, così, finisce così. Grandi abbracci. Così te ne vai. Domenica alle 17. Ci becchiamo domenica alle 17. Ciao. Borsa. Conte felice. Tutta la squadra felice, peccato che i tifosi sono incazzati neri. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Tutti convocati. Questa è la classifica generale. Primo e secondo Team Samweb. Teo Gogginarta, 15 secondi. Peio Bilbao, Vincenzo Nibali ormai è 5.47, oggi l'abbiamo visto in difficoltà. Ti sai dare una spiegazione di tutto questo? Vanno più forte gli altri, un ricambio di generazione c'è, perché ci sono tutti dei corridori che sicuramente hanno una carta d'identità molto più giovane. Io sono un classe 84 e siamo in pochissimi a essere ancora qui, magari a provare qualcosa. È stato un giro molto difficile per me, un anno molto difficile perché è stato molto complicato, ecco. Allora, Giro d'Italia che va verso la conclusione, che accadrà a Milano domenica, come sappiamo, ne parleremo in tutti i convocati weekend, credo. Anche perché non chiude con la solita passerella il giro, ma chiude con una crono di 15 chilometri, breve e intensa, soprattutto se oggi, adesso lo racconteremo insomma, ma domani che c'è il tappone dovessero restare vicini. Poi adesso il nostro Pier Augusto Staggi con la sua palla di vetro, dopo averci pronosticato 2 settimane in rosa del quasi sconosciuto per noi Almeida, ci dirà chi vince il Giro d'Italia. Però il succo è che abbiamo davanti un sabato e una domenica straordinaria di ciclismo. Sì, più che altro siamo di fronte oggi a una giornata abbastanza surreale di ciclismo, perché doveva esserci la tappa più lunga di questa corsa, da Morbegno ad Asti, dritta, piatta, però lunga, 258 km, invece no. Ciao Pieragusto. Ciao Carlo, ciao Giovanni, hai detto bene, la tappa più lunga è diventata veramente in questo caso una tappetta, una protesta veramente un po' sconclusionata da parte dei corridori che hanno messo in difficoltà l'organizzazione, che ha dovuto subire un'azione dimostrativa da parte di un gruppo, non tutto del gruppo, di una parte del gruppo, della metà del gruppo, perché è troppo freddo, in realtà c'erano 13 gradi, la pioggia in realtà si avvicinava. Certo, 258 chilometri dopo due tappe piuttosto logoranti, quello bisogna dirlo, però dico ragazzi, tutto si può fare al mondo, però bisogna farlo con i giusti tempi, col rispetto anche di chi sta facendo uno sforzo immane, perché bisogna riconoscerlo a RCS Sport che sta organizzando un Giro d'Italia in condizioni limite estreme, limite, non c'è dubbio. Dirlo, non è che se io non ho la casacchina Gazzetta, però siamo partiti da Palermo e Caragrazia, come si suol dire, questo nel primo lockdown, speriamo che non ci sia un secondo, ma a marzo scorso i corridori dicevano correremo in qualsiasi condizione, speriamo di tornare a correre, inventateci un calendario mignon, alla fine l'UCI ha messo assieme un calendario, una stagione condensata in tre mesi, luglio, agosto e settembre, siamo qua a correre, no, scusa, agosto, settembre e ottobre, siamo a correre per la prima volta nella storia un Giro d'Italia nel mese di ottobre, cioè, se ci sono delle cose che non vanno, c'è cioè un sindacato dei corridori, in questo caso il CPA, presieduto da un grande campione che risponde al nome di Gianni Bugno, e qui c'è il problema, Carlo e Giovanni, qual è il problema? Il problema è che c'è il capo del sindacato, che è un carissimo amico, però sta facendo l'opinionista per la TV di Stato, e c'è un conflitto evidente che crea un pasticcio nel pasticcio, in più sbagliando totalmente i tempi e i modi, perché potevano già dirlo ieri sera, potevano dirlo due giorni fa dicendo ragazzi, vi facciamo una donna di Campino. Quindi c'era una parte del gruppo, tu dici? Quale certo, parte del gruppo? Ad esempio guarda caso la Sunweb della Maglia Rosa, che se saltano 130 chilometri non fa che bene, sono anche contenti, no? Quindi detto come va detto, però sono le stesse. Siamo sempre alle solite, è una questione di educazione, non si arriva stamattina, per dirti come è stata organizzata male. A un certo punto i corridori erano allineati a Morbegno, pronti per partire, i pullman, i motorhome erano già andati via, sono stati richiamati e hanno deciso di accorciare la tappa, quindi hanno fatto 11 km attorno a Morbegno, hanno richiamato il motorhome, sono saliti sui motorhome, hanno fatto 100 km, quindi li hanno saltati, hanno bypassato 100 km e sono rientrati in corsa ad Appia sì. Detto questo, organizzare una tappa del Giro d'Italia non significa semplicemente andare da qui a lì in bicicletta, significa organizzare una macchina, una struttura con blocchi del traffico, con percorsi alternativi, eccetera, eccetera, che bravissimo, non è esattamente una cosa banale. Carlo, non è una cosa banale, addirittura di anche chiedere permesso, perché allo stesso Abbiate Grasso, prima avevano provato con Como, che hanno risposto picche, che è logico, non è che puoi dire scusate, possiamo arrivare lì con 20 motorhome, ragazzi, è venerdì no, di ottobre in un momento sì, difficile con qualche altro problemino da risolvere. Bravo, in un momento non banale hanno chiamato Vigevano, stessa risposta, alla fine ha risposto presente a Abbiate Grasso e da lì si è ripartita la corsa, però veramente devo dire sono rimasto a questo Piero Augusto, io sono innamorato di ciclismo e tu lo sai, voi lo sapete. Io oggi ho un senso profondo di delusione perché il mio sport, lo considero tale, il mio sport ha fatto una bruttissima figura. Io che al 99,9 periodico sono dalla parte dei corridori, oggi mi sento vinto. Questo Piero Augusto allora riporta il discorso da cui siamo partiti. Noi parlavamo di Conte, dell'Inter, del Covid nel calcio, ma va in generale esteso a tutti. Cioè ci vuole un grandissimo senso di responsabilità. Se non te la senti perché c'è freddo, il gruppo, mezzo gruppo, tre quarti del gruppo, puoi anche aver ragione dopo lo Stelvio. Fai i primi 70 chilometri a 25 all'ora e la porti a casa in qualche modo. Ci sono mille modi. C'è il modo dell'allenatore che non parla delle positività nel suo gruppo, anche se sono 6 o 7, c'è un gruppo di ciclisti che con responsabilità capisce il momento, ci sono gli sportivi che evitano di sovraesporsi o di godere di eccessivi canali privilegiati, ci sono gli sportivi che magari accettano il taglio dello stipendio invece delle pantomime a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, e questo è il senso di responsabilità. Oggi ci racconta Piero Augusto, il gruppo del Giro d'Italia ha perso il senso della misura, magari anche partendo da un punto di ragione, perché non è semplice, fa freddo, piove, è la fine della terza settimana e quindi è tutto comprensibile, ed è sbagliato anche come è stato impostato il calendario del ciclismo, è sbagliato anche il calendario del calcio, se possiamo vogliamo utilizzare i parametri tradizionali. Però ha ragione Piero Augusto, cioè ci vuole senso di responsabilità, misura. Giovanni, è così. Tra l'altro, come hai detto tu, hanno anche delle ragioni. Non più tardi di ieri, dopo il tappone bellissimo, no, dello Stelvio, che abbiamo tutti goduto, assaporato, gustato profondamente a fini polmoni, i corrieri sono tornati in albergo alle 10 di sera. È stata una giornata difficile, quindi rialzarsi, però ribadisco, queste cose, persone di esperienza, quindi non sono dei ragazzini, non sono dei dilettanti allo sbaraglio, sono professionisti, potevano organizzare quei loro rappresentanti, certo, due giorni, un giorno prima, perlomeno certo, anche ieri sera, già all'imbrunire sui pullman potevano dire: ragazzi, adesso chiamiamo il direttore del Giro, Mauro Vegni, e vediamo di trovare una soluzione, perché arriviamo tardi in albergo, mangiamo tardi, facciamo i massaggi, non hai neanche tempo di recuperare. Onestamente hanno delle ragioni, ma non si fa così, non si può arrivare al mattino, ma che rispetto anche per Morbegno, per la Valtellina, per tutte le paesi, le città che dovevano essere attraversate. È una situazione, l'ha detto Giovanni chiaramente, l'avete riassunto in maniera magistrale voi, ci vuole un pochino di buonsenso, di rispetto, ognuno ha le sue ragioni. Gli organizzatori non sono brutti e cattivi, certo, gli organizzatori non stiamo discutendo di ragioni. Gli organizzatori fanno business, ma anche i corridori, gli organizzatori hanno, lo sapete perché hanno organizzato 3 mesi di attività esattamente per il calcio? Per non far fallire le squadre, per dare la possibilità ai corridori di guadagnare almeno il 70% del loro stipendio, perché se no addirittura alcune squadre, di cui non faccio il nome per correttezza, hanno tagliato, decurtati gli stipendi del 70%. Ma vedi Piero, adesso i comuni che non sono stati attraversati oggi dal Giro, i comuni che aspettavano il Giro, tutti quelli coinvolti in questa macchina andranno a chiedere conto non a quelli che oggi non volevano correre, ma agli organizzatori, e non vorrei essere nei loro panni. Ciao Piero Augusto, ci sentiamo domenica naturalmente. Sentiamo più che volentieri domenica, speriamo. Ciao. In un clima più sereno. A domenica. Allora, traffico, poi abbiamo Silvano e Enrico, sono due ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Scusate, ma la riflessione è molto semplice: i tifosi del Milan sono consapevoli che è un momento passeggero, fortunato, in cui abbiamo indovinato alcune partite, però il nostro obiettivo rimane fisso, quello del quarto posto, fine, inutile metterci il prosciutto davanti agli occhi. Finalmente tutti si stanno accorgendo che il vero integralista in Italia è Antonio Conte. L'anno scorso si parlava tanto di Sarri, ma si parlava poco di Antonio Conte, e lo stiamo vedendo quest'anno che, pur non avendo difensori centrali, continua a fare il 3-5-2. Ciao! Bisogna anche dire che comunque pure l'organizzazione del giro, tu metti una tappa con lo Stelvio, questi rientrano la sera alle 10, il giorno dopo 250 chilometri, poi sabato mega tappone e domenica cronometro, insomma, potevano mettere una tappa più corta, una tappa di trasferimento, più leggera, insomma, no? Devono fare qualunque cosa. Il Milan non è fortunato, il Milan gioca bene e tutto quello che sta facendo è frutto del lavoro. No, perché diceva l'amico, noi tifosi del Milan siamo consapevoli che in questo momento è fortuna. No, poi dopo c'è tutto il ragionamento su quelle che sono le potenzialità e le prospettive. Allora, Silvano Bergamo, buongiorno. Sì, ciao. Ciao. Ma io volevo spezzare una lancia a favore della partita della Roma di ieri, che forse non è stata sufficientemente, non tanto da voi, ma non è stata sufficientemente apprezzata. Non è facile giocare a Berna con lo Young Boys, nel senso, forse per io ne so qualcosa di più perché seguo il calcio svizzero da anni, ne scrivo, però francamente, cioè, giocare su, insomma, la Juve 2 anni fa ha perso, perché giocare su quel campo sintetico lì, per una squadra che non sono abituate, non è semplice. Anche semplicemente, lo so, fare dei passaggi, passare il pallone, palla a terra, cioè se non sei abituato a colpire, la palla c'ha un altro trito rispetto al campo in erba. Addirittura parlavo con l'allenatore del Lugano, Celestini, adesso Lucerna, così, secondo lui è proprio un altro sport, anche semplicemente colpire il pallone da sotto, cioè il piede nell'erba al fondo, sul campo sintetico no. No, poi a maggior ragione, sono... Silvano, a maggior ragione lo abbiamo sottolineato la partita della Roma. Roma no, hanno perso in tanti a Zurigo con lo Young Boys in Champions League Berna, in questi anni. A Berna, sì. Può capitare, ha perfettamente ragione. Scusa. Ti racconta anche che la Roma comunque, al di là dei problemi e anche delle critiche a Fonseca, ha delle potenzialità. Ma come no? Perché poi l'ha ribaltata in un tempo. A maggior ragione è andata lì su un campo che nessuno ha detto fosse facile. È andata lì con una formazione dove sì, è stato fatto turnover, sono entrati Mkhitaryan e Dzeko a lavori in corso e hanno ribaltato la partita. Questo suona a maggiore merito del livello della Roma. Enrico Milano, buongiorno. Sì, pronto, ciao gente, mi ciao. Permetti di darti del tu perché per me ormai sei un amico visto che ti ascolto tutti i santi giorni. Mi fa molto piacere. Io sono un tifoso del team, sono incazzato come una bestia. Con chi? Visto che voi avete il numero di telefono di un certo presidente Cairo, potete dirgli che cosa sta facendo? Perché è impossibile vedere una squadra del genere. Cioè, tutto sulle spalle di un ragazzo, Belotti, al quale ha messo anche dei prezzi assurdi, che se andava in un'altra squadra forse qualche soddisfazione l'aveva. Abbiamo 0 punti, ma non è quello le cose. Le cose, che cosa sta facendo? Mi spiegate cosa sta facendo questo Cairo? Volete dirgli di andarsene dal Torino, di lasciar libero questo Torino, di farci avere una soddisfazione in una stagione, una soddisfazione? È anni che non ce l'abbiamo. Cuore granata che sanguina, Torino a 0 punti, io mi interrogo su, ovviamente, prendere un allenatore come Giampaolo, che non è un allenatore banale come modo di lavorare, modo di intendere il calcio, bla bla bla, sappiamo tutto quanto. È abbastanza evidente, con una squadra che non è tanto diversa da quella dell'anno scorso, che l'inizio sarebbe stato piuttosto tempestoso, no Gio? Sì, ma ho l'impressione che Giampaolo sia finito per la seconda volta di fila più o meno nello stesso sacco. Meccanismo. Cioè, insomma, anche qui gli mancano almeno un paio di uomini per fare il suo calcio, e quando fai un calcio che ha una precisa identità, come quello di Giampaolo, come quello di Sarri, come quello, insomma, degli allenatori che lavorano molto su quel tipo di meccanismi, e questo è un problema. In più c'è che probabilmente questo Toro non ha dei valori assoluti, soprattutto in difesa e a centrocampo, un po' meno in attacco, e questo, insomma, fa sì che la partenza sia difficile. Però io, insomma, credo che il Toro debba sempre stare almeno nella parte in mezzo della classifica e magari ci arriverà anche quest'anno. Questo lo vediamo. Intanto domenica abbiamo un sacco di cose di cui parlare, no? Domenica abbiamo tantissime cose perché questo è anche un weekend di motori, e lasciando stare la Formula 1 che oramai viaggia serena verso il 7° mondiale di Hamilton, anche se dovremo celebrare, credo, il record di Hamilton che supererà Michael Schumacher, c'è una MotoGP fantastica di cui parleremo. Benissimo, allora noi aggiorniamo la seduta domenica, tutti convocati weekend dalle 17 alle 19. Io ringrazio Claudia Schiattone per il lavoro in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e appunto ci sentiamo domenica. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Mm.